Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo la storia che non conoscete. Un rovescio della medaglia terribile all'interno di una delle famiglie più conosciute del mondo del secolo precedente. Una storia di soprusi, una storia di disagio e cattiveria. Come sempre accade in questi casi, dal letame nascono i fiori, perché la nostra protagonista è una donna che non ha fatto nulla, lei, se non subire qualsiasi angheria, con la sua presenza ha combattuto in un certo senso una battaglia senza voce ed è riuscita a innescare una serie di eventi che hanno permesso a milioni di persone in tutto il mondo di migliorare la propria vita e di potersi curare ed essere considerate con rispetto e con empatia. Perché la nostra protagonista di oggi è una donna, lo abbiamo detto, che ha un cognome importante, famosissimo, proviene da una delle famiglie più in vista del mondo, i Kennedy. Ma lei, a differenza di tutti gli altri componenti del suo nucleo familiare, non era una persona di successo, non faceva politica, non è diventata presidente degli Stati Uniti o senatrice, non era impegnata nel sociale, non era una famosa giornalista, niente del genere. Era una disabile mentale, diventata poi anche una disabile fisica, che ha passato tutta la sua triste esistenza in un istituto di cura. Eppure ha lasciato un'eredità talmente grandiosa che supera forse quelle lasciate dai suoi ben più famosi parenti. Oggi dedichiamo la nostra puntata a Rosemary Kennedy perché vogliamo aprire una finestra che nessuno ha mai aperto o comunque che hanno aperto veramente in pochi. Rosemary Kennedy era la sorella minore del presidente degli Stati Uniti John Kennedy, una sorella della quale non si è mai saputo nulla fino a pochissimo tempo fa. Raccontiamo la Kennedy nascosta e prima ascoltate questo. Anyone can imagine what happens when a child is born. Ci immaginiamo tutti cosa succede quando nasce un bambino. C'è una domanda veloce che ci si pone subito. È tutto a posto? È sano? E ci sono solo due possibili risposte. Sì, e tutti sono felici ed eccitati. No, e allora ecco la paura, il dolore, la tristezza. Heartbreak, sadness. La voce era quella di Tim Shriver, che era il figlio di Eunice Kennedy Shriver, che era un'altra sorella Kennedy, diciamo il nipote di Rosemary, della nostra protagonista. E lui, come vedremo, sarà molto toccato nella sua vita dagli eventi collegati alla disabilità di sua zia Rosemary e pone l'attenzione su un momento cruciale che passano tutti quelli ai quali nasce un figlio. Ci siamo passati tutti noi genitori, contiamo le dita per vedere se ci sono tutte, attendiamo con ansia il responso dei medici, poi qui stiamo parlando di un periodo pre-ecografia, quindi la risposta arrivava solo alla nascita, non c'erano analisi precedenti a quel momento. Insomma, si spera sempre che ti dicano che va tutto bene, che il neonato è sano. Alcune volte purtroppo non è così e questo è il caso di Rosemary Kennedy. Rosemary nasce il 13 settembre del 1918 a Brookline, che è un sobborgo di Boston, nel Massachusetts. È la terza figlia ed è la prima femmina di Joseph Kennedy e Rose Fitzgerald. I suoi genitori non sono due persone qualunque, la dinastia dei Kennedy la conosciamo tutti. Viene da una famiglia di politici, e il padre è un uomo d'affari, è un investitore, è un possidente terriero, durante la guerra rifornisce le forze armate statunitensi di munizioni, possiede diversi studios di Hollywood, sarà proprietario di emittenti radiofoniche e di diversi giornali e avrà anche una sua carriera politica, sarà ambasciatore degli Stati Uniti in Gran Bretagna. Insomma, un uomo di peso, arrivato a essere il nono uomo più ricco e influente d'America e per alcuni versi è arrivato ad essere il primo. Naturalmente non sposa una donna qualsiasi. Rose Fitzgerald è la figlia di John Francis Fitzgerald, un uomo politico, due volte sindaco di Boston, proprietario dei Boston Red Sox, la storica squadra di baseball, un matrimonio tra due potenti che vogliono conquistare l'America e ci riescono. Tutto ciò porterà i suoi frutti, perché i fratelli e le sorelle di Rosemary, 8, perché i figli con lei erano 9, avranno tutti qualche carica importante. John, presidente degli Stati Uniti, Bob, senatore che morì anche lui per mano attentatrice il 5 giugno del 68, Ted diventeranno senatori, Jan Ann, l'ambasciatrice d'Irlanda, Eunice, filantropa, Patricia, produttrice cinematografica, tutti tranne Rosemary. E torniamo a lei, alla sua nascita, 13 settembre del 18, un momento importante, drammatico e ahimè decisivo, quando la madre Rose entra in travaglio. Ascoltiamo il racconto di Kate Clifford Larson, la biografa di Rosemary. Quando Rose entra in travaglio, l'infermiera che sta aspettando l'arrivo del medico ostetrico mantiene Rosemary all'interno del canale di nascita, impedendole di uscire perché ha paura di affrontare il parto senza il medico. Dice a Rose di tenere le gambe chiuse, ma Rose ovviamente non ci riesce, per cui spinge la testa della bambina con la mano all'interno. Which of course she couldn't do, and that's why the nurse held the baby back. Il dottore, l'ostetrico dei Kennedy, è in ritardo perché è impegnato, perché la spagnola, la terribile influenza che in quegli anni arriverà a uccidere oltre 100 milioni di persone nel mondo, sta attraversando l'area di Boston, colpisce bambini, donne incinte. Quel genio dell'infermiera che assiste a Rose non si intende di parti e fa la cosa più sbagliata che potrebbe fare. Invece di lasciare che la natura faccia il suo corso, dice a Rose di non spingere. Trattiene Rosemary all'interno del canale di nascita per oltre 2 ore, così quando il dottor Good arriva e fa nascere la bambina appare evidente che ci sia stato un danno dovuto alla carenza di ossigeno, anche se ancora non si capisce bene di quale entità. Purtroppo il responso sarà terribile. Il falco e il gabbiano. Una sciagurata decisione di un'infermiera e una bambina che viene lasciata dentro a sua madre prima di nascere per aspettare il dottore. E la madre, che è Rose Fitzgerald Kennedy, si accorge subito che qualcosa non va in quella bambina che si chiamava Rosemary. Lei ha già avuto 2 figli, questa bambina è diversa, non piange mai, cresce ma non cresce, è sempre silenziosa, è rallentata nei movimenti, non compie quei passi che sono normali nello sviluppo di un bambino sano che cresce. Le cose peggiorano e quando Rosemary passa dall'età della prima infanzia a quella scolare, arrivano i problemi seri, confonde le lettere e i numeri, a volte non scrive da sinistra a destra ma va nella direzione opposta, ha difficoltà di apprendimento. Anche negli sport, nei quali i suoi fratelli sono eccellenti, lei non riesce, non sa manovrare la slitta, non sa pattinare e, non avendo un buon coordinamento a tennis, non riesce neanche a giocare. Ascoltiamo la madre che moltissimi anni dopo, nel 74, durante un'intervista, parla di Rosemary in questi termini. Quando era piccola, mi resi conto che era lenta a scuola e per lei era tutto difficile. Tirare una slitta, tenere in mano una matita. Capii che era diversa dagli altri fratelli e ne parlai ai dottori. Loro mi dissero che era una bambina ritardata, che era una cosa che io non sapevo potesse esistere. La facemmo visitare da diversi specialisti, ma non sembrò che potessero esserci dei miglioramenti. Anzi, man mano che cresceva, la cosa sembrava peggiorare. Questa intervista è del 74, cioè in un periodo in cui in qualche modo i Kennedy hanno metabolizzato questa loro disgrazia e soprattutto hanno cominciato a capire che bisognava parlarne per migliorare la vita degli altri, ma gli inizi non sono quelli. I suoi deficit sono interpretati come qualcosa da nascondere. Siamo anni in cui la scienza intanto non ha studiato a fondo né catalogato le disabilità intellettive, si parla semplicemente di ritardi mentali, un termine che oggi è bandito. Forse Rosemary è solo dislessica e discinetica, però fa parte di una famiglia che ha un altissimo livello di aspettative nei confronti dei suoi componenti, perché i rampolli della dinastia dei Kennedy devono diventare tutti qualcuno, la stirpe lo impone, infatti tutti, chi in un verso chi nell'altro, arriveranno molto in alto, raggiungeranno livelli che nella società sono al di sopra delle possibilità comunque della maggior parte delle persone, tutti tranne uno. Figuriamoci una come lei, che ha questa sfortuna che diventa una vergogna per la famiglia. Bisogna isolarla. Però nei primi anni non dobbiamo immaginare una bambina infelice, perché i Kennedy comunque sono una famiglia unita e ci sono tanti bambini che circolano per casa, sono ricchissimi, hanno una vita bella, una casa spettacolare, frequentano scuole di alto livello, amici importanti, feste, shopping, insomma hanno tutto quello che possono desiderare. Anche lei vive nella sua maniera questa vita privilegiata. Ascoltiamo ancora Kate Clifford Larson, che è la biografa della sciagurata Rosemary. La famiglia Rose e Joe e i fratelli includevano Rosemary in tutto quello che era possibile fare quando era piccola. La integravano esattamente come si fa oggi con le persone che hanno delle disabilità intellettive e che partecipano alla vita di tutti i giorni. Sicuramente Rose e Joe erano avanti rispetto ai tempi, perché altre famiglie con figli disabili li mandavano negli istituti. Ma poi, con il passare degli anni, le cose sono cambiate e anche loro iniziarono a mandare Rosemary in diverse scuole. E qui la storia diventa tutt'altra cosa. Lei sta crescendo, sta per entrare nell'adolescenza, però la sua testa è quella di una bambina di 5-6 anni, incomincia a essere difficile gestirla, è impossibile mandarla in una scuola tradizionale. Poi sono anni in cui non ci sono ancora, non so, le insegnanti di sostegno, quindi questa figlia per i Kennedy diventa un problema serio. La madre ha tutti gli altri bambini a cui pensare, il marito non ne parliamo, è sempre impegnato, insomma tutti reputano che sia giunto il momento di portare Rosemary in un istituto specifico. Da questa decisione inizia il calvario di Rosemary Kennedy. E così dagli 11 ai 20 anni Rosemary viene iscritta in ben 5 diversi istituti speciali. Il motivo di questi spostamenti sta nel fatto che lei è terribilmente infelice, è lontana da casa, le sue condizioni peggiorano perché lei lì non ci vuole stare, quindi diventa aggressiva e non è più docile. E di fronte a questi peggioramenti, come reagisce il padre? Spostando semplicemente la figlia da un luogo all'altro, ritenendo che possa giovarle un cambio di ambiente. Questa è proprio l'ignoranza pagina 1 della gestione di figli del genere, perché sappiamo che non è così. Per i disabili mentali ogni variazione alla propria routine è terribile da affrontare, ogni minimo passo avanti che possono aver compiuto viene vanificato. Rosemary è distrutta dalla nostalgia di casa, di quella dei genitori e dei fratelli. Ascoltate cosa scrive al padre. Papà adorato, farei qualsiasi cosa per renderti felice. Odio farti arrabbiare, non voglio. Ti prego, vienimi a trovare, mi sento tanto sola, tutti i giorni. Di alla mamma di scrivermi, sono triste perché non la sento. Di alle ragazze di scrivermi una lettera, ma lunga, più lunga che possono. So che lo faranno. Tanti, tanti baci. La tua figlia devota, Rosemary. Eh sì, le lettere di Rosemary sono strazianti, raccontano la vita di una ragazza sopraffatta dalle emozioni, triste, incapace di comprendere perché all'improvviso viene strappata la sua famiglia, e con il suo linguaggio semplice, con le parole scritte magari al contrario, piene di errori, di ortografia, di grammatica, queste lettere sono la testimonianza del suo dramma. Ma nonostante i suoi ripetuti appelli, per tutto il periodo scolastico, le medie e il liceo, Rosemary viene tenuta lontana da casa. Poi accadono degli eventi che sembrano volgere in suo favore, invece sono l'inizio della fine. Accade qualcosa nella carriera politica del padre che fa presagire una svolta positiva anche nella vita di Rosemary, perché siamo nel 38, Joseph Kennedy viene nominato dal presidente Roosevelt ambasciatore americano in Gran Bretagna. Quindi per i Kennedy si tratta di un momento splendido, l'incarico di grande prestigio, la vita londinese si preannuncia ricca di eventi piacevolissimi, saranno presentati a corte, entreranno in contatto con il bel mondo della nobiltà inglese, insomma una bella prospettiva che in particolare Rose, la madre, sente determinante per la formazione dei figli. Per fortuna Rosemary ha terminato il suo corso di studi speciali a 20 anni, quindi Kennedy decidono di portarla con loro in Inghilterra. Rosemary è felicissima e quello che riesce a comprendere è che rientrerà in famiglia, potrà nuovamente stare con i genitori, con i suoi adorati fratelli. Questa storia sembra volgere al meglio e invece arriva un momento con dei risvolti veramente raccapriccianti. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia veramente tragica, direi crudele, una storia a tratti simile a un giallo, l'esistenza drammatica della Kennedy nascosta. Rosemary è la sorella minore dei grandi Kennedy, del presidente John Fitzgerald Kennedy. Rosemary è nata con una forma non gravissima di disabilità intellettiva causata da un errore di un'infermiera, da una carenza di ossigeno durante il parto. È una bambina e poi una ragazza dislessica, discinetica. Probabilmente è così, perché ai primi del Novecento la medicina ancora non si pronuncia su questo tipo di malattie o di disturbi mentali. Lei comunque è rallentata in tutto, vive questa sua disabilità in una famiglia dove invece il livello intellettivo, fisico, di performance, di aspettative è altissimo. Stiamo parlando della famiglia più potente, famosa, ricca d'America, i Kennedy, dove tutti sono plurilaureati, politici, statisti, imprenditori, produttori. Anche le donne sono emancipate, sposano uomini potenti, insomma una dinastia dove non può esistere nessuna forma di debolezza. E lei, Rosemary, debole lo è. Non ha l'intelligenza dei fratelli, non ha la determinazione della madre, è una ragazza tutta cuore e sentimento. Dopo aver trascorso gli anni della scuola in istituti per disabili mentali, soffrendo immensamente la nostalgia di genitori e dei fratelli, torna finalmente a casa, giusto in tempo per fare le valigie. Si va in Gran Bretagna, papà è ambasciatore americano a Londra. La vita è favolosa nella capitale inglese, i Kennedy vengono accolti da tutti, dall'alta società, dalla nobiltà inglese, frequentano il bel mondo, passano da una festa a un concerto, vengono presentati a corte, al re George, alla regina madre, sono i genitori della regina Elisabetta. Le poche foto dell'epoca che ritraggono l'intera famiglia Kennedy, Joe, Rose e i 9 figli, rimandano questa immagine di Rosemary, un'immagine strabiliante, perché non vi ho ancora detto una cosa, che lei, a dispetto di tutte le sue disabilità, è una ragazza incredibilmente bella. Ascoltate ancora la sua biografa. She became a young adult. Crescendo, divenne una giovane decisamente bellissima, straordinariamente bella, sicuramente la più bella delle donne Kennedy. E i suoi genitori iniziarono a preoccuparsi perché l'attenzione che riceveva da parte dei giovanotti poteva essere un pericolo. Per cui iniziarono a tenerla sotto stretto controllo, soprattutto quando era in pubblico. Tutto quello che faceva veniva attentamente orchestrato dalla famiglia e i fratelli e le sorelle partecipavano a questa orchestrazione. And her siblings participated in this orchestration and management. E quindi la incredibile bellezza di Rosemary diventa un'altra arma ai suoi danni, diventa l'ennesima sfortuna della sua vita. Perché lei è una bella ragazza, gli uomini la guardano, la vogliono conoscere, la corteggiano e lei è felice, è contenta, ama la vita. Quindi il problema è quello che il suo corpo è quello di una meravigliosa ventenne, però il cervello è quello di una dodicenne, senza malizia ma senza freni inibitori, e quindi i genitori hanno paura di qualche scandalo. La scuola speciale che frequenta a Londra e all'interno del convento dell'Assunzione segue il metodo di Maria Montessori, che appare subito molto efficace su di lei. Compie passi da gigante, impara a gestire meglio i propri sentimenti, si tranquillizza, va a fare shopping con le sorelle, va alle feste, fa sport e la sua disabilità è attenuata e gestibile meglio. Ma i fatti legati al secondo conflitto bellico obbligano i Kennedy a lasciare l'Inghilterra per rientrare negli Stati Uniti. È il 1940. I genitori l'avevano riportata in famiglia, ma volevano tenerla separata dal mondo esterno, soprattutto perché si profilavano all'orizzonte importanti carriere per i figli, in particolare per i maschi. Insomma, le motivazioni sono chiare, no? Le preoccupazioni di Joe e Rose Kennedy, i genitori, sono queste. I loro figli sono destinati a grandi cose, a grandi carriere, e peraltro la storia darà loro ragione. E quindi i Kennedy non possono rischiare uno scandalo. Rosemary rappresenta l'anello debole in una catena fortissima. Così, una volta rientrati negli Stati Uniti, internano nuovamente Rosemary, questa volta in un convento. E lei non ci sta. Vari membri della famiglia Kennedy che sono stati intervistati più avanti negli anni hanno confermato che Rosemary scappava dal convento di notte per incontrarsi con dei ragazzi e i suoi genitori erano terrorizzati al pensiero che potesse essere coinvolta in qualche scandalo, che rimanesse incinta, che capitasse qualcosa di terribile. Rosemary è incontenibile, non è più la ragazza allegra e dolce dei bei tempi inglesi, è una ragazza ribelle, come si direbbe oggi, è furibonda coi genitori che l'hanno rinchiusa di nuovo, diventa aggressiva e poi c'è quel particolare, di notte elude la sorveglianza delle suore e esce. E a questo punto Joe Kennedy decide che è venuto il momento di trovare una soluzione definitiva al problema di questa figlia. Forse il padre si confronta con diversi medici, insomma, bisogna intervenire sul cervello di sua figlia in un modo o nell'altro, quel modo di pensare e quindi quel cervello va modificato. La soluzione ha un nome che fa tremare al solo pensiero, si chiama lobotomia. Joe Kennedy decide di fare praticare la lobotomia alla figlia, ne parla a casa e non riceve immediatamente un giudizio favorevole. In proposito, ascoltiamo ancora Kate Clifford Larson. Joe si informò circa questa nuovissima tecnica sperimentale condotta da due medici di Washington, Walter Freeman e James Watts, i quali gli assicurarono che la lobotomia era lo strumento perfetto per calmare le persone che erano agitate, che mostravano i sintomi di una malattia mentale, e Joe si convinse che era perfetta per Rosemary, per renderla più calma e controllabile. Rose ne parlò con Kik, la figlia giornalista. Lei si informò e disse che non era assolutamente una procedura a cui sottoporre Rosie. L'Associazione dei Medici Americani aveva espresso parere negativo nei confronti della lobotomia perché era troppo sperimentale. Joe era un uomo intelligentissimo. Mi sconvolge il fatto che l'Associazione dei Medici Americani avesse detto che non andava fatto, ma lui la fece lo stesso. La sorella Kik cerca di difendere Rosemary finché può, ma nonostante i pareri di famiglia non certo favorevoli, Joe Kennedy procede ugualmente in gran segreto alla lobotomia di Rosemary. È un'operazione allucinante e oggi vietata, tranne in casi particolarissimi, e comunque fatta con modalità diverse. L'operazione prevede l'inserimento nel lobo frontale di una spatola che va a incidere la materia grigia, che viene fatta su pazienti parzialmente svegli, cioè con una sedazione blanda, perché il paziente cosa fa? Deve parlare o cantare, e i medici smettono di incidere quando il paziente si ferma perché non è più in grado di parlare o di cantare. Avete capito bene, è una procedura barbara, una tortura terrificante alla quale viene sottoposta la giovane, bellissima e spumeggiante Rosemary. E succede questo. Watts e Freeman avevano effettuato un centinaio di queste lobotomie quando la fecero a Rosemary nel novembre del 41. Lei aveva 23 anni. Ne uscì completamente disabile e impossibilitata a condurre una vita normale. Avevano inciso troppa materia cerebrale e lei non poteva più camminare né parlare. Ebbe un braccio completamente paralizzato per il resto della sua vita ed era diventata incontinente. Impiegò decenni per riprendere in parte l'uso delle gambe e non poté mai più parlare correttamente. Fu un'operazione terrificante che non avrebbe mai dovuto aver luogo. It was a horrible, horrible botched operation that never should have taken place. È un orrore condotto all'interno della famiglia Kennedy. È l'orrore più terribile che si può commettere, perché Rosemary è ridotta a un vegetale. Joe la porta lontano, prima in un ospedale psichiatrico a nord di New York, poi all'istituto Santa Coletta di Jefferson nel Wisconsin, dove Rosemary rimarrà fino alla morte, avvenuta, pensate, nel 2005, 64 anni dopo. E a casa nessuno sa niente. Joe comunica semplicemente che Rosemary si è improvvisamente aggravata, che lui ha deciso di ricoverarla in un istituto dove i medici gli hanno sconsigliato contatti con la famiglia. Rosemary non deve subire forti emozioni, meglio lasciarla tranquilla. Insomma, Joe mente a tutti e da quel momento per 20 anni nessuno della famiglia Kennedy ha più contatti con lei. Sembra impossibile, eppure è così. Pensate che pochi anni fa il senatore Ted Kennedy, che all'epoca aveva 9 anni, ha scritto questo nella sua autobiografia. Rosemary era sparita e nessuno di noi sapeva dove fosse. Avevamo imparato a non chiedere e io mi ero convinto che se avessi parlato di lei mi sarei ammalato nel suo stesso modo. Rosemary diventa la Kennedy nascosta, la figlia della quale nessuno deve parlare. Nel 61, a 20 anni dalla lobotomia di Rosemary, Joe Kennedy ha un ictus che lo riduce nelle stesse identiche condizioni di sua figlia, su una sedia a rotelle, impossibilitato a muoversi e a parlare. A questo punto le suore del Santa Coletta, non potendo più comunicare con lui, contattano Rose, la moglie, e tutto il marcio finalmente viene fuori. I Kennedy scoprono della lobotomia, però si sa, i panni sporchi si lavano in famiglia, soprattutto se la famiglia si chiama Kennedy, quindi anche i figli continuano a tenere segreta la cosa. Solamente nel 2005, quando Rosemary muore, la scrittrice Kate Clifford Larson, incuriosita dalla notizia della sua morte, inizia a indagare, anche cercando di parlare con i Kennedy, che ovviamente non le parlano. Arriva a scrivere la sua biografia, che per il momento i Kennedy non hanno nemmeno commentato. Ma qui c'è un giallo, perché mentre il libro della Larson esce a ottobre del 2015, alcuni mesi prima, a sorpresa, viene pubblicata un'altra biografia di Rosemary, quella che invece viene commentata positivamente dai Kennedy, scritta da Elizabeth Keller Pentakoff, che è la nipote di una suora dell'istituto di Santa Coletta. È un istituto che ha goduto negli anni di generosissime elargizioni da parte dei Kennedy, e quindi la biografia è ben diversa. Ascoltate cosa si dicono una giornalista e la nipote della suora durante la presentazione del libro. È una storia affascinante, perché si sa che il padre approvò la lobotomia e la cosa importante da sapere è che le sue intenzioni erano ottime. Qual era il problema di Rosemary? La diagnosi era ritardo mentale, ma sicuramente soffriva di disabilità cognitiva. Ma soprattutto era molto naif, socialmente naif, e poi si dimostrò molto violenta. She had very violent temper tantrums. Avete sentito, in 40 secondi viene ripetuto per ben due volte che Joseph Kennedy aveva ottime intenzioni. La cosa viene fatta intendere anche nel libro dalla nipote della suora. Veramente, insomma, una biografia di potere. Le conclusioni dell'altra biografa, quella vera, dicono ben altro. L'ospedale psichiatrico avrebbe potuto essere un'alternativa migliore della lobotomia. Erano ricchi, potevano pagare delle persone che vivessero con lei e se ne prendessero cura. Perché non lo fecero? Lui permise che sua figlia subisse un'operazione del genere. Sono certissima che non avrebbe mai messo su quel tavolo John, Bob o Ted. Lo fece per la paura della sessualità di Rosemary, della sua malattia mentale e anche per le sue ambizioni per la famiglia. Sofferenze incredibili, una vita di sofferenze inutili, che diventano per fortuna utili nel postumo, perché proprio grazie a Rosemary che i fratelli e le sorelle Kennedy si sono operati in ogni modo per rendere migliore la vita dei disabili negli Stati Uniti, forse sopraffatti dai sensi di colpa per non essere riusciti a impedire ciò che ha fatto il loro padre. Hanno promulgato leggi in favore dei disabili, hanno creato molte fondazioni, in particolare Eunice Kennedy Shriver e i suoi figli, tra cui Tim, quello che abbiamo sentito all'inizio, hanno creato la fondazione Special Olympics, che organizza i giochi olimpici per gli atleti con disabilità intellettive. Tutto questo in onore, memoria e direi per il rimorso sulla sorte della loro sfortunata sorella. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno dato un colpo d'ala, ma abbiamo raccontato anche storie di persone a cui questo colpo d'ala è sempre stato impedito. È il caso della nostra Rosemary Kennedy, l'anello debole della famiglia più potente d'America. Sono storie terribili che spesso noi non conoscevamo neanche, soprattutto non le conosciamo quando c'è un intero gruppo di potere che cerca di nascondercele. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure sul sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi, a cercarci sui nostri social. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.